Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, la Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi, come nel programma naturalmente inizialmente prestabilito, parliamo di fisco, del nostro rapporto con il fisco in qualità di contribuenti e di quando avremmo bisogno, in qualità di contribuenti familiari o impresa, di pagare il fisco, le scadenze fiscali a rate, perché naturalmente abbiamo problemi di liquidità, cose che succedono. Oggi la rateizzazione delle scadenze fiscali è un po' più semplice rispetto al passato, sono stati modificati i requisiti per poter far richiesta del ricadenziamento. Noi ve ne parleremo quest'oggi con Antonio Iorio, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Però prima di iniziare subito con questo argomento, volevamo dedicare un approfondimento alla giornata di borsa che, dopo essere partita male in Europa, via via ha peggiorato la sua situazione, con Milano che adesso cede il 2%, sono in calo verticale tutti i titoli del settore bancario, negative anche le altre piazze: Parigi meno 0,9%, Francoforte meno 1,35%, Londra meno 0,56% e soprattutto il nuovo vistoso preoccupante allargamento, gli spread, i differenziali di rendimento fra i titoli italiani a scadenza decennale ma anche quelli spagnoli, bonus, che sono appunto i paritetici a scadenza decennale, appunto con i paritetici tedeschi. Siamo arrivati, per quello che riguarda il rapporto fra i titoli italiani e tedeschi, a 380. Questa mattina lo spread fra il bonus e il bund ha superato i 400 punti. Cosa sta accadendo? Piccolo approfondimento con Giulio Varesani Varini, Millennium Sim, buongiorno. Buongiorno. Colpa della Spagna allora tutto questo? Perché per la verità, quando ho preannunciato che avremmo fatto questo collegamento, già qualche ascoltatore si è affrettato a commentare: non sottovalutate anche la discussione sulla riforma del mercato del lavoro in Italia, che agita anche un po' dal punto di vista politico, anzi non un po', un po' tanto, la situazione nel nostro paese. Quindi forse gli investitori stanno monitorando attentamente anche quello che accade in Italia relativamente alla discussione su questa importante riforma. Che ne pensa Varesani Varini? Ci dia un po' la sua chiave di lettura di questa giornata. No, la riforma del lavoro anzi dovrebbe essere un qualcosa da giocarsi in termini positivi per la riduzione semmai dello spread, perché tutto sommato si è trovato un accordo, si è addolcito un po' l'intervento della manovra, ma della riforma, ma tutto sommato era anche giusto, si prende questo modello tedesco e comunque un'altra riforma che probabilmente avrà alle Camere un sentiero un po' facilitato, e a questo punto possiamo sperare di un'approvazione prima delle elezioni amministrative locali del 6 maggio. Dopodiché quello che il mercato vorrà vedere dal nostro governo è un po' di taglia debito, magari facendo dei fondi ad hoc per gli immobili non utilizzati, e magari anche un po' di spending review, cioè di fatto di dettaglio della spesa pubblica, come è stato fatto un po' più in Spagna, che ha fatto manovre simili all'Italia ma con composizioni diverse. E poi la riforma della giustizia / corruzione, via dicendo, visto quello che sta emergendo in questi giorni. Però il governo sta facendo, non si può chiedere che faccia quello che non è stato fatto in decine d'anni in pochi giorni. Quindi non è una cosa italiana, è piuttosto un contagio spagnolo con gli anglosassoni che, secondo me sbagliando, ci mettono sempre sullo stesso piano, mentre la situazione italiana-spagnola è diversa, mentre rimodulare tutto il modello di crescita spagnolo, francamente non saprei neanch'io cosa fare, perché è basato tutto, come dire, sull'immobiliare, sul turismo e poco più. Su quello italiano è chiaro dove intervenire, bisogna fare un colpo alla volta, perché sennò il consenso politico, diciamo, viene meno a questo governo tecnico che sta facendo bene. Quindi, ritornando all'attenzione sui mercati questa mattina, la dobbiamo ricondurre alla Spagna. Tra l'altro l'allargamento dello spread è determinato anche dal fatto che sta crollando ai minimi storici il rendimento dei titoli tedeschi, per cui non è solamente colpa del fatto che aumentano, è successo in Spagna con le aste di ieri, ma anche i rendimenti dei nostri titoli sono in aumento, ma diciamo che l'allargamento è dovuto anche alla parte bassa della forchetta che sta cedendo ulteriormente. Sì, se non ho capito male. Non è un aumento fuori controllo, però sicuramente il termometro spread comincia a risegnalare febbre, e in fondo l'asta di ieri non è andata tutta coperta, oggi c'è stata quella francese, è andata meglio, ma anche lì gli è salito lo spread, e in più si sta fermando un po' la locomotiva tedesca, perché se sui dati occupazione vanno molto bene, è uscito anche il dato della produzione industriale tedesca che cala. Quindi la sensazione è che la Germania non può crescere da sola, l'Italia, l'Olanda, che era vista come la Germania, anche lei sarà in recessione quest'anno, la Francia galleggia e tutto quello che è periferico o mediterraneo soffre terribilmente. È anche vero che c'è, non dico una sorta di aggiotaggio anglosassone, però se il Financial Times e il Wall Street Journal sparano costantemente contro l'Europa, la Spagna, e continuano a emergere delle veline che poi vengono smentite di eventuali richieste di aiuti della Spagna, se dopo due o tre giorni c'è un'asta è difficile che ci sia la corsa a comprare questi titoli di Stato quando vengono messe da giornali autorevoli in giro queste voci. È tutto verosimile, però evidentemente questa mors tua vita mea tra le due sponde dell'Atlantico non aiuta, con in più il danno e la beffa, cioè l'euro che oggi è indebolito, ma fino a due o tre giorni fa restava forte e sicuramente non aiutava. Baresani Varini, mettiamoci anche questo terzo aspetto, per non saperne leggere né scrivere, in attesa ancora che la situazione dell'Eurozona si definisca con chiarezza, che si tranquillizzi definitivamente, tutti quegli operatori che hanno portato a casa dei bei guadagni nei primi tre mesi dell'anno prendono a spunto queste notizie per incassare qualcosa. Questa era l'illusione che noi gestori ci eravamo dati a fine marzo, no? In fondo il mercato stava già battendo in testa da due o tre settimane, ma eravamo convinti che ai primi di aprile potesse esserci, come dire, la riapertura di posizioni. In realtà non è stato così. Da ultimo anche l'EBA, cioè l'ente di controllo, diciamo, delle banche in Europa, anziché addolcire diciamo le richieste di capitali delle banche che oggi fanno gran fatica a ricapitalizzare, di fatto ha ricominciato come dire con la sua rigidità, e questo danneggia assolutamente le banche un po' più sottocapitalizzate in Italia, come alcune Popolari o Montepaschi, proprio nel momento in cui si stavano riprendendo. E anche queste critiche continue alla BCE per questi due finanziamenti contro garantiti all'1%, che hanno dato tempo, ma se iniziamo subito a criticargli o chiedere un exit strategy, non si aiuta sicuramente il lavoro di tutti. Io la ringrazio per essere stato con noi. Intanto Milano supera il 2% di calo in questo momento, con i titoli delle banche che sono tutti in perdita tra il 5 e il 6%. Grazie Baresani Varini, buona giornata. Grazie a voi. Noi oggi parliamo invece di fisco, lasciamo la borsa, speriamo che la tensione si alleggerisca, parliamo di fisco e delle nuove opportunità che hanno i contribuenti, non quelli che fanno i furbi, ma quelli che si trovano nell'impossibilità materiale di onorare puntualmente le scadenze fiscali, hanno accumulato loro malgrado ritardi nei pagamenti. Adesso Equitalia concede la rateizzazione dei ritardi fiscali con un po' più di elasticità rispetto al passato. Sentiamo. Buone notizie sul fronte del rapporto fisco-contribuente. Chi si trova davanti a una cartella di pagamento inviata da Equitalia può infatti, grazie a recenti modifiche normative, accedere più facilmente rispetto al passato alla possibilità di pagamenti rateizzati. Le regole in materia si ammorbidiscono e vanno incontro alle difficoltà che la crisi porta, con pesi sempre maggiori, a famiglie e imprese. Quella della restituzione dilazionata dei debiti con il fisco è una tendenza già piuttosto consolidata nel nostro paese. Riguarda 1,5 milioni di posizioni per un totale di 19,4 miliardi di euro di importi. E secondo i calcoli di Equitalia, la pratica media per cui viene chiesta la rateizzazione ammonta a poco meno di 13.000 euro. Si alza poi a quota 20.000 la soglia massima concessa per ottenere automaticamente la possibilità di rateizzare, senza dover quindi presentare le dichiarazioni ISEE o gli indici di bilancio. E si alza anche l'asticella di 25.000 euro, sotto la quale non era necessario allegare una relazione sulla situazione patrimoniale sottoscritta da un professionista, arrivando a 50.000 euro. In parole povere, per pagamenti al di sotto di queste cifre non è più necessario, o diventa più semplice, dimostrare una situazione di difficoltà delle proprie finanze per ottenere questa forma di pagamento. E le buone notizie arrivano anche per chi vorrebbe un piano di ammortamento a rata crescente e per chi sta già pagando al fisco la sua quota mensile. In caso di peggioramento nel bilancio familiare, sarà possibile ottenere la proroga e accordarsi su un nuovo piano di rate. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, per farci le vostre domande sul tema di oggi. Antonio Iorio ci sente, buongiorno. Buongiorno. Sentiamo un po' in difficoltà, allora so che sta raggiungendo lo studio a Roma, adesso tra un pochino magari ci ricollegheremo con lei per garantire ai nostri ascoltatori delle condizioni di collegamento migliori. Intanto appunto il tema del quale parliamo, come vi dicevo, è la questione di quei contribuenti, famiglie o imprese che rimangono per tutta una serie di problemi che si possono palesare e se ne sono palesati tanti negli ultimi tempi, possono rimanere in ritardo appunto con il rispetto delle scadenze fiscali, allora per certi importi possono chiedere al fisco di rateizzare quanto devono. E quindi da una parte, mentre si cerca di intensificare la lotta all'evasione fiscale in ogni modo, siccome c'è anche chi rispetta alla lettera gli impegni con il fisco, versa tutto quello che deve versare senza battere ciglio, ma si può trovare magari ad avere problemi di entrate, problemi di liquidità. Allora, per questi contribuenti, se si vedono recapitare una lettera di Equitalia contenente una cartella di pagamento, potranno chiedere di versare a rate quello che devono. Dottor Iorio, in quale pacchetto degli ultimi emanati dal governo sono contenute appunto le novità relative alla rateizzazione che era possibile già prima, adesso si sono modificati un po' alcuni standard? Sì, esattamente. Diciamo più precisamente che sono praticamente gli ultimi decreti legge che stanno decisamente modificando il quadro della rateizzazione. In realtà già dal decreto sviluppo abbiamo avuto delle modifiche. Poi l'ultimo, il decreto Salva Italia, e ultimamente il decreto quello sullo sviluppo fiscale. Senta, mi sa che faccio... Le novità sono obiettivamente positive, nel senso che abbiamo onestamente dei vantaggi. Tra l'altro leggevo anche, perché lei ha scritto molto su questo tema negli ultimi tempi sulle Sole 24 Ore, che se proprio dobbiamo dare dei riferimenti normativi ai nostri ascoltatori che sono molto esigenti e ce li chiedono per poter magari andare a recuperare poi il testo legislativo e leggerselo con attenzione, che le ultime novità sono contenute negli ultimi pacchetti sulle semplificazioni, cioè il decreto legge 16 del 2012, giusto? Però consideri che la legge base, l'articolo 19 del DPR 602 e su quello che 602 e 73 del 73 certo, sì, quindi siamo è stato ripetutamente modificato e da ultimo con questo DL. In concreto, guardi, le vere novità, diciamo, che possono interessare la stragrande maggioranza dei contribuenti era, come si diceva in scheda, il fatto che sotto i 20.000 euro la rateizzazione sarà automatica. Benissimo, quindi certo bisognerà fare direttamente una domanda, il contribuente in questione deve farla, però diciamo che la risposta non sarà una risposta che arriverà con ritardo, non ci sarà un'istruttoria complicata da mettere in piedi da parte di Equitalia appunto, ma in maniera un po' più semplice il contribuente in difficoltà potrà avere una risposta. Eccoci di nuovo in diretta. Iorio, mi sente adesso? Certo, buongiorno. Ah, ottimo, adesso il collegamento telefonico ci piace molto di più. Il tema che trattiamo un po' meno, però, siccome magari insomma le regole, le procedure di cui oggi vogliamo parlare potrebbero contribuire anche ad alleggerire questo peso, quello del rispetto degli impegni con il fisco per molti contribuenti, cerchiamo di renderlo semplice e di renderlo digeribile ai nostri ascoltatori. Allora, come dicevamo appunto prima, sono state ammorbidite alcune regole in tema di riscossione, in particolare diventano più flessibili le regole che permettono di restituire a rate i debiti notificati dal fisco, perché Iorio, appunto, lo dicevamo prima, la rateizzazione esisteva già, gli ultimi provvedimenti varati dal governo hanno permesso forse ad una platea più ampia di contribuenti di versare a rate i ritardi con il fisco. Iorio, qual è stata la ratio, diciamo, delle ultime novità? La ratio è sostanzialmente questa, è quella di favorire maggiormente l'accesso alla rateizzazione, sia aumentando il livello sotto il quale è automatica la radiazione, sia soprattutto prevedendo anche delle rate flessibili, perché in realtà molti contribuenti accedevano al piano di rateazione e purtroppo per questioni finanziarie non ce la facevano a pagare. Oggi invece è stato anche previsto non solo di chiedere un'ulteriore rateazione, per cui teniamo presente che la rateazione va da 12 a 72 rate. In caso di comprovata difficoltà economica si può addirittura richiedere ulteriori 72 rate, quindi ipoteticamente si può arrivare fino a 144 rate. E soprattutto la cosa, ripeto, molto interessante è che si può anche prevedere un piano crescente di rateazione, il che insomma per un contribuente che prevede ad esempio che tra qualche anno spera di migliorare la sua situazione economica può iniziare a pagare delle rate di importo inferiore e poi aumentarle. Prima certo. Non era possibile, era tutta la certo. Costante. Allora, tra l'altro sono tutte indicazioni interessanti, perché è chiaro che se uno chiede di rateizzare gli impegni fiscali che non ha potuto onorare nel passato recente, chiaramente perché si trova in una condizione di difficoltà economica, quindi deve partire dimostrando intanto, credo che questa sia la cosa fondamentale, la sua buona volontà, cioè il fatto che lui questi impegni li vuole onorare. Per cui in genere che cosa succede comunque, dottor Iorio? Deve arrivare la cartella di pagamento oppure il contribuente? Purtroppo deve arrivare la cartella di pagamento e il consiglio è quello di non aspettare tutti i 60 giorni, perché nella cartella di pagamento c'è scritto che entro 60 giorni si può pagare. Non conviene aspettare tutti i 60 giorni, nel frattempo, quindi prima dei 60 giorni, recarsi presso lo sportello Equitalia che ha emesso la cartella e chiedere la rateazione. Un'altra semplificazione molto importante è che prima per ottenere la rateazione, perché ribadisco, ora fino a 20.000 euro è automatica, ma sopra i 20.000 euro non cioè è automatica se ne hai bisogno, se devi chiederla. Certo, se la richiedi certo. È automatica nel senso che sicuramente ti danno 12 rate. Certo. Esatto, invece per importi superiori e comunque se uno vuole una rateazione più di 12 rate, ad esempio a 72 rate che cominciano a essere 6 anni sostanzialmente, perché parliamo di rate mensili, è importante calcolare degli indici. Sono indici che si trovano già sul sito di Equitalia e sono il cosiddetto indice alfa e l'indice di liquidità. Ecco. Cosa vuol dire molto concretamente? L'indice alfa dà un'idea della situazione economica, l'indice di liquidità invece dà l'idea di Equitalia della difficoltà di liquidità che c'è in quel momento quel contribuente o quell'impresa. Qual è la novità buona? È che mentre prima l'indice alfa era sostanzialmente sbarrante, nel senso che se non si raggiungeva un coefficiente, un numero all'esito di questi calcoli, che sono molto semplici, è più difficile a dirsi che a farsi, e non si accedeva alla rateazione, oggi questo indice alfa sostanzialmente è stato annullato, il che vuol dire, cioè, essere annullato serve solo per definire la liquidità e il numero delle rate, quindi vuol dire che in ogni caso 12 rate le prendono tutti se vengono richieste. Dottor Iorio, è possibile immaginare che ci possa essere da parte di un contribuente o di un'impresa, in maniera del tutto legittima, solo perché vuole pagare con serenità i debiti pregressi appunto con l'amministrazione fiscale, che chieda una rateizzazione pur magari non avendone i requisiti per poterlo fare, nel senso che se non corrispondono certo, appunto questi indici che lei ci indicava, ecco, ma è solamente anche una, come dire, condizione preventiva che il contribuente vuole. Dunque sotto i 20.000 euro 12 rate direi proprio di sì, però parliamo solo di 12 rate e 20.000 euro perché non bisogna fare nessun calcolo. Se invece parliamo di somme superiori ai 20.000 euro, ovvero anche sotto i 20.000 euro ma con richiesta di più di 12 rate, bisogna effettuare questi calcoli, per cui la liquidità dell'impresa, del contribuente diventa determinante ed è qualora che se un contribuente che è in situazioni per fortuna sua molto fiorenti sotto il profilo finanziario, più di 12 rate non potrà ottenere. C'è un ascoltatore che ci scrive, poi vedremo se anche le nuove regole hanno imposto ad Equitalia di rispondere entro determinato arco di tempo al contribuente che fa la richiesta appunto di rateizzazione, perché c'è un ascoltatore che ci scrive: io ho fatto richiesta di rateizzazione ad Equitalia lo scorso anno su un importo di 13.000 euro ma non ho ancora ricevuto una risposta, intanto gli interessi aumentano, è possibile dottor Iorio? No, è molto strano, obiettivamente molto ci deve stato un disguido, perché normalmente in questo bisogna dare atto, pur essendo molto critici con Equitalia storia, bisogna dare atto che di norma sulle istanze di radiazione qui Italia è abbastanza tempestiva. Temo ci sia stato un disguido, perché un anno non è nei tempi, anche perché, come giustamente rileva il radioascoltatore, gli interessi aumentano anche di parecchio, quindi forse conviene farsi subito parte diligente, andare a chiarire, specialmente se la domanda di radiazione è stata presentata, c'è una ricevuta, una raccomandata, per far capire che è da allora che si sta chiedendo. Allora, per debiti fino a 20.000 euro, come spiegavamo all'inizio, la rateazione viene concessa automaticamente presentando una semplice domanda motivata, cioè si deve spiegare all'amministrazione fiscale la ragione per cui si fa la richiesta, ma mi sembra normale che ci si trovi in una condizione di difficoltà economica. Quindi quanto deve essere dettagliata anche questa motivazione? 20.000 euro sostanzialmente è un'istanza in cui si chiede la rateazione. Ecco. I problemi e i calcoli nascono, ribadisco, se si vogliono più di 12 rate e più di 20.000 euro. Allora sì. E in quel caso va corredata la domanda, se non ho capito male, da una relazione sottoscritta da un professionista abilitato. Chi è il commercialista che deve spiegare? Il commercialista è un revisore legale, certo, che deve certificare la situazione, diciamo, finanziaria ed economica del contribuente. E lì poi chiaramente l'istruttoria è magari un po' più complicata. Equitalia chiede un po' più tempo per poter dare una risposta, oppure in che tempi è obbligata a rispondere al contribuente? Non è così immediata, ma obiettivamente ci mette pochissimo tempo, anzi di norma diciamo che una relazione del professionista abilitato è comunque una garanzia di Equitalia che già la fondatezza della richiesta è stata vagliata, perché evidentemente il professionista assume delle responsabilità in proprio facendo una relazione sottoscrivendola, quindi diciamo anche una sorta di garanzia che talvolta accelera anche tutto sommato. Allora, prima di andare alle altre curiosità che ho io, direi di cominciare anche a sentire i nostri ascoltatori. All'800 24 00 24 potete anche scriverci al 349 238 6666, a salvadanaio @radio24.it, e vedo anche che Marco Lombardo, l'assistente al programma, mi segnala anche alcune indicazioni che arrivano da Facebook, da nostro profilo che è salvadanaio-radio24. Allora, Eugenio dalla provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno. Tocca proprio un bel punto interessante, lei ci dica. Sì. Allora, io vorrei sottoporre una domanda al dottore. Praticamente su un'imposta base di 1.000 euro, quanto andrà a restituire il contribuente con le sovrattasse e gli interessi? Perché se l'agevolazione è nella rateizzazione, però se questa rateizzazione non finisce mai perché si raddoppia il capitale, alla fine non è un'agevolazione. Certo, lei vuole sapere, ma insomma è una cortesia che il fisco mi fa, ma quanto se la fa pagare questa cortesia? Perché sostanzialmente è un prestito vero e proprio. Eugenio, la ringrazio, mi sembra pertinente. Quanto è conveniente economicamente fare la rateizzazione, Iorio? Certamente le dilazioni si pagano, e purtroppo in questo bisogna dirlo, si pagano in base alla legge, nel senso che in questo Equitalia non è che stabilisce come qualunque privato che interessi applicare, no? E obiettivamente per legge ci sono degli interessi che sono quelli al saggio legale, ma soprattutto teniamo presente incide purtroppo parecchio l'aggio della riscossione, che è di circa il 9%. Però, ce lo traduce in termini umani, il 9%, cos'è l'aggio? È il compenso che si prende Equitalia, la commissione per aver, la possiamo chiamare per aver così, svolto la sua attività. Però attenzione, perché questo aggio, questo 9% Equitalia se lo prende anche se non si fa la rateazione. Praticamente cosa succede? Arriva la cartella al contribuente, nella cartella vengono richieste ad esempio 1.000 euro, d'accordo? Di norma questi 1.000 euro, come faceva l'esempio il radioascoltatore, non sono solo l'imposta, ma ci sono anche le sanzioni che possono variare, se sono tributi fiscali di norma è il 100%, l'80%, il 40%, il 30%, a seconda della violazione. Su questi 1.000 euro, che sono quindi interessi più sanzioni, Equitalia per l'attività che svolge prende il 9%. Di questo 9%, se il contribuente paga entro i 60 giorni, il 4,65 lo paga lui, il 4,35 lo paga l'ente che ha dato il credito a Equitalia, certo, nella specie l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che la prefettura se sono contravvenzioni stradali. E se invece si fanno scadere questi 60 giorni, è tutto a carico del contribuente. È che il 9% obiettivamente dovrebbe essere una cifra abbastanza significativa. Certo, adesso noi facciamo l'esempio su 1.000 euro, ma in genere immaginiamo 100.000 euro. Poi ci sono purtroppo gli interessi di mora, che anche quelli purtroppo sono previsti previsti per legge. Quindi sostanzialmente quello che voglio dire non è che con la rateazione aumentano gli interessi o l'aggio, in realtà sono sempre gli stessi, perché il problema è se il contribuente paga nei termini o meno. Quindi da questo punto di vista, purtroppo o per fortuna, mi sento di spezzare una lancia a favore dell'Impiego Italia, che applica sostanzialmente le norme di legge. Che non ne diventi un'abitudine spezzare molte lance a favore di Equitalia, perché sappiamo in quanti quanto a volte la loro, come dire, la loro pretesa, che per carità sarà anche legittima, a volte esagerata, ha messo in ginocchio molti imprenditori. Conosciamo bene le contestazioni di quelli della Sardegna italiana. Per segnalare una notizia importante di cui spesso ne abbiamo parlato poco anche sul quotidiano, che è la seguente: che sempre grazie al DL16, no, Equitalia non può iscrivere più le ipoteche sotto i 20.000 euro. Che è una bella novità, perché sostanzialmente prima si attestavamo, almeno per gli immobili che non erano prima casa, sugli 8.000 euro. Quindi oggi il contribuente ha una certezza, che se c'è un debito sotto i 20.000 euro e non paga, gli potranno fare il fermo dell'autovettura, potranno fargli altre cose, ma l'ipoteca sull'immobile non gliela possono fare, il che non è poco. Certo, allora andiamo ad altre domande. Un ascoltatore ci chiede: ma si può rateizzare o fare una richiesta di rateizzazione dell'IVA prima che sia diventata una cartella esattoriale, quindi anche lì una funzione preventiva? Una persona immagina già di essere in difficoltà, non potrà versarla, dice certo, che c'è certo. Già faccio questa richiesta. Certo, ed è anche una domanda molto opportuna e anche, diciamo, intelligente farlo, perché si evita questo aggio di cui abbiamo parlato, di cui ci chiedeva l'ascoltatore precedente. Cosa bisogna fare? Nel momento in cui il contribuente non paga l'IVA, perché non so, dalla dichiarazione emerge un debito di 1.000 euro di IVA, non c'è i soldi, non versa, nel momento in cui gli arriva un avviso cosiddetto bonario dell'Agenzia delle Entrate, a quel punto se lui può già pagare a rate senza fare fideiussione, senza nulla, senza pagare alcun aggio della riscossione. Quindi ancora prima della cartella c'è l'avviso bonario, quindi partendo da quel presupposto si può fare una richiesta eventualmente di rateizzazione. Poi ci sono tutte le derive, come ci segnalano alcuni ascoltatori, quando arriva direttamente la cartella e molti sostengono di non aver ricevuto appunto il precedente avviso di accertamento bonario, e quindi lì poi si scatena una lotta senza fine con l'amministrazione fiscale. Da Facebook appunto un ascoltatore ci racconta: cartelle esattoriali che spuntano come funghi, ho presentato un ricorso all'Agenzia delle Entrate senza risposta, oltretutto quell'IRPEF non abbiamo ricevuto accertamento bonario, come vi dicevo l'agenzia non è in grado di dimostrare l'accertamento avvenuto, quindi evidentemente l'invio dell'avviso bonario, intanto non posso rateizzare con Equitalia il resto delle pendenze. Ecco poi dove si incartano le situazioni, che possono diventare anche drammatiche, dottor Iorio. Sì, purtroppo sì, questa è la realtà. Diciamo che al di là della legge, poi, come in ogni cosa, ci sono le persone, gli uomini, per cui dipende anche poi dall'altra parte dello sportello con chi si ha a che fare. Ecco, in quest'ultimo caso forse conviene suggerire di insistere nel ricorso, perché sicuramente, poiché nel ricorso verrà eccepito il fatto che l'avviso bonario non è stato notificato, o l'Agenzia delle Entrate è in grado di portare la prova di aver notificato l'Agenzia delle Entrate, o come dice il nostro radioascoltatore, nella specie non l'ha fatto, in quel caso il giudice fa una cosa molto importante: riduce le sanzioni al contribuente, perché se uno paga con l'avviso bonario, per l'omesso versamento, paga le sanzioni al 10%, se invece aspetta la cartella, le sanzioni aumentano al 30%, quindi in quel caso il giudice, prendendo atto del fatto che il contribuente non ha ricevuto l'avviso bonario perché l'agenzia non è in grado di provarlo, quantomeno gli riduce le sanzioni del 20%, che non è poco. Certo, allora intanto c'è un ascoltatore che ci segnala che per un errore nel pagare l'IVA di 2,28 euro gli è arrivata una simpatica cartella di Equitalia di 27,60 euro, moldavio si chiama il nostro ascoltatore. Adesso è chiaro che qua non parliamo di un importo da rateizzare, ma è solamente una di quelle situazioni un po' proprio estreme delle quali ci capita di parlare spesso. Fisco Errate, Marco da Verona, buongiorno. Marco? Sì, sono qua, pronto. Buongiorno, ci dica. Buongiorno, io sto pagando un omesso pagamento di IVA a rate trimestrali con l'Agenzia delle Entrate. Ho saltato una rata, invece di pagarla il 2 di aprile l'ho pagata il 4 di aprile. Uh-huh. Volevo sapere se non l'ha saltata, tutto. Diciamo è andata avanti un paio di giorni. Ecco, l'ho pagata due giorni dopo. Volevo sapere se salta tutta la rateizzazione o se posso continuare. Allora, Marco, per radio. Sì, grazie molto. Ci ascolti pure per radio. Allora, dottor Iorio, intanto mi pare che la decadenza del piano di ammortamento, chiamiamolo così per dirla in maniera così sofisticata, decada solo se si sono mancate di pagare due rate in maniera consecutiva. Qui però non abbiamo un mancato pagamento, ma un ritardo. E poi siamo di fronte non a una cartella, da quello che ho capito, perché parlando di rate trimestrali immagino, ma all'avviso bonario. Io direi che sicuramente non decade, l'unica cosa che gli potrà essere richiesta è eventualmente una sanzione ridotta per il ritardato versamento. Vorrei proprio vedermi l'importo, guardi, che potrebbe arrivare. Possiamo calcolare, perché a occhio sarà un 3%. Eccoci, Marco. Detto molto a spanne. Vabbè, comunque l'importante è che non gli decada, anche se non è esattamente il contesto del quale stiamo parlando questa mattina, l'opportunità di continuare a rispettare gli impegni con il fisco a rate, perché ci mancherebbe anche questa beffa. Marco da Massa invece, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Io ho questa problematica, purtroppo mi è venuta fuori una sanzione da pagare dopo un accertamento dell'Agenzia delle Entrate di circa 68.000 euro. Uh-huh. Ho un bilancio di un SRL dove in pratica c'è un po' di utile, ma l'utile secondo loro è molto di più, perché io ho dei crediti che non riesco comunque a incassare, certo, dei clienti, e loro sostengono che comunque io ho utile perché vanto questi crediti verso queste persone, e quindi non mi vogliono fare la rateizzazione che io avevo chiesto di fare per il massimo per 72 mesi, perché insomma 68.000 euro è un importo consistente. Ci mancherebbe, altro, Marco. È una questione anche di persona allo sportello, perché lui la interpreta così. Io sentivo prima di una dichiarazione del commercialista, io sono andato dal mio commercialista e addirittura mi era venuto in mente di ricorrere a un grado maggiore, però mi ha sconsigliato dicendo che ora è un periodo di caccia alle streghe, dice noi presentiamo ricorso e va a finire che ce lo bocciano e paghiamo ancora di più e paghi le spese di ricorso e tutte le varie cose, quindi io non so come uscirne fuori. Certo, Marco. Tutta la nostra solidarietà e comprensione, vediamo un po'. Antonio Iorio, mi sembra veramente folle quello che gli capita, perché esatto. Vorrebbe, perché non ci va Equitalia a chiedere a riscuotere il credito? Ecco, esatto. La crisi che nessuno paga, che è notorio al ecco mondo, appunto, infatti è la pubblica amministrazione la prima a non pagare appunto tutti io i lavori che ha commissionato a tanti imprenditori. Suggerirei questo, poiché è vero che per calcolare 12, 24 fino a 72 rate bisogna fare quei calcoli che abbiamo detto prima e di cui parlava il radioascoltatore, però la norma c'ha una via d'uscita che è la seguente, dice salvo casi particolari, eccezionali. Allora io suggerirei, soprattutto se lui ha avuto la percezione che il problema sia proprio l'omino allo sportello, di fare una bella lettera al direttore generale di Equitalia, non so se lì sarà Equitalia Centro, e di dire guardate, a me mi succede questo, sarà pur vero che con i crediti purtroppo in base ai vostri calcoli ho diritto a 12, però è sotto gli occhi di tutti e vi posso dimostrare che i miei creditori non mi stanno pagando, quindi in realtà il mio utile è proprio questo, e quindi tenterei in questo modo. Se poi ci dovesse essere un diniego, il diniego è impugnabile innanzi alla commissione provinciale tributaria, quindi là poi magari partono i presupposti per il ricorso. Esatto, però ripeto, dato che mi risulta che in questo periodo da parte almeno dei vertici di Equitalia ci sia il massimo impegno a concedere molte dilazioni, ad essere addirittura ieri sentivo parlare dello sportello amico e infatti anche perché qui stiamo parlando di un contribuente che non contesta la legittimità della cartella che ha ricevuto, no? Però lui la vuole pagare. Ecco appunto, quando poi vediamo veramente queste follie ci arrabbiamo. Dico, quindi io scriverei e ritengo che ci sarà la comprensione, perché insomma veramente mi sembra un caso apocalittico. Marco ci scriva se vuole avere qualche dettaglio in più rispetto magari anche così ai contorni, alla modalità giusta per scrivere, ma credo che il suo commercialista potrà aiutarlo. Insomma, l'idea è che forse è necessario bypassare l'omino allo sportello, perché qui abbiamo poi magari uno che sicuramente fa nel migliore dei modi i suoi lavori, però in un'ottica di rigidità che è quella a cui purtroppo Equitalia, la vecchia riscossione appunto, ci ha abituato da qualche anno. Allora, siccome invece la nuova norma va in un'ottica di maggior flessibilità nell'aiutare i contribuenti in difficoltà, allora vediamo di applicarla al meglio. Vincenzo da Salerno, buongiorno. Vincenzo? Buongiorno. Ah, ecco, stava parlando. Senta, con qualcuno. Volevo chiedere, io poi sono un imprenditore, sì. C'avevo un debito con l'Agenzia delle Entrate, e ho pagato, l'ho rateizzato, pagai 4 rate e le altre non le ho potute pagare. Sì. Mo sto aspettando la cartella dell'Equitalia. È più di un anno che non mi è arrivata ancora. Oh mamma mia, Vincenzo. E poi un'altra cosa volevo chiedere: quando mi arriverà l'Equitalia, io potrò rateizzare? Perché mi sembra che sulla cartella ci stava una dicitura nella quale diceva: se hai interrotto il rateizzo alla cina delle entrate, non puoi più rateizzare all'Equitalia. Perché c'era già una rateizzazione. Vincenzo, a occhio, mi pare che la situazione potrebbe essere proprio questa, Iorio. Sì, è proprio così, però un'altra delle novità che ha introdotto il decreto legge 16 è questa, è che se non si è fatta la rateizzazione sull'avviso bonario, come dovrebbe essere il caso del nostro radioascoltatore, si potrà fare in futuro quello sulla cartella. Quindi lui potrebbe essere proprio uno dei primi beneficiari della nuova norma. E quindi lo potrà fare. In effetti le cartelle che abbiamo visto fino a 2 mesi fa dicevano proprio, recavano proprio la dicitura di cui parlava il nostro ascoltatore, però ora con la nuova norma cambia. Benissimo, mica tanto. Dottor Iorio, abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione, pensavo di poterle fare un'altra domanda, invece non ci riesco. La riproponiamo questa trasmissione al più presto per i nostri contribuenti che vogliono liberarsi di questi fardelli? Con molto piacere. Grazie molte. Noi adesso siamo all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con l'INPS, con le quali vi spieghiamo il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Questa settimana ci stiamo occupando delle novità che riguardano le pensioni di vecchiaia. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. La riforma, per favorire la transizione per alcune categorie di lavoratori, prevede alcune eccezioni all'aumento dei requisiti di età per ottenere la pensione di vecchiaia. Quali sono queste eccezioni? Le nuove regole, e dunque anche quelle relative all'elevazione dell'età pensionabile, non si applicano a coloro che hanno maturato i requisiti, secondo la vecchia normativa, entro il 31 dicembre 2011, ai lavoratori anziani in mobilità al 4 dicembre 2011, ai lavoratori coinvolti in piani di esubero al 4 dicembre 2011, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, ai lavoratori che si sono dimessi entro il 31 dicembre 2011, sulla base di accordi individuali o collettivi, e che avrebbero potuto andare in pensione nei 2 anni successivi. È prevista una particolare eccezione per le donne del settore privato che raggiungono entro il 31 dicembre 2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, cioè per le nate nel 1952. Queste potranno andare in pensione al compimento del 64esimo anno di età, a meno che le nuove regole non risultino per loro più favorevoli, e allora possono sceglierle. Salva Danaio termina qui, grazie ad Antonio Iorio, noi ci sentiamo regolarmente domani, buona giornata a tutti.